9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno, sempre sulle note di Doors, The End. Buon martedì 27 di marzo da Oscar Giannino. Il tema è quello del settore pubblico, dei lavoratori pubblici dipendenti, del capire come mai. Tenta di spiegarlo oggi sul Messaggero, a questo proposito, a pagina 7, il ministro Filippo Patroni Griffi, che è il ministro della pubblica amministrazione, tenta di spiegare, lettore del Messaggero, a noi tutti, se volete potete consultarlo, perché il pubblico impiego non è come il resto del mondo del lavoro. Tagliare nel pubblico impiego non si può come nel privato, e questa è la tesi del ministro, perché c'è un concorso di mezzo, e siccome c'è il concorso di mezzo, allora i criteri sono diversi per le assunzioni, per i licenziamenti, per tutto, e ci vuole ben altro. Si scrive al partito benaltrista il ministro Patroni Griffi, ci vuole ben altro, ci vuole un dibattito molto ampio sull'importanza del settore pubblico e dei suoi lavoratori, perché il settore pubblico è improntato all'imparzialità, l'articolo 97 della Costituzione, mi scappa da ridere, però questo è sicuramente quello che c'è in Costituzione, e dunque il ministro dice giù le mani dal pubblico impiego. Nel frattempo noi tenteremo di capire com'è che in Gran Bretagna, negli anni del governo Cameron, i pubblici dipendenti diminuiranno di 730.000 unità. Questa è la notizia da cui partiremo, tenteremo di farci spiegare come funziona lì. Come si individuano coloro che sono diventati, vogliamo usare un aggettivo terribile, superflui, sono un sovrannumero nella pubblica amministrazione, con quali criteri di pianta organica, di economicità, di merito? Ci faremo spiegare come funziona, vanno in mobilità, non vanno in mobilità, hanno la cassa integrazione, e come sia possibile che lì avviene, non solo lì, avviene da tante altre parti nel mondo, quando si tratta di tagliare la spesa pubblica in deficit e per non far rincorrere esclusivamente alla spesa da parte delle tasse e le entrate, noi scegliamo l'altra strada, noi scegliamo la strada per il quale da sempre, da vent'anni, lo abbiamo fatto quando saltò la lira, lo abbiamo fatto per entrare nell'euro, lo abbiamo fatto quando finiamo alle corde in un ring perché siamo i sospettati nell'euro, lo abbiamo fatto con la sinistra, lo abbiamo fatto con la destra, lo abbiamo fatto con i tecnici 20 anni fa, torniamo a farlo con i tecnici anche oggi. La linea è sempre la quella, la spesa corrente sale, oltre 50% del PIL, e la pressione fiscale contributiva sale. Questa è l'unica cosa che sappiamo fare per non tagliare il perimetro pubblico, per non diminuire lo spreco pubblico, per non diminuire le inefficienze pubbliche, per non poter mettere mano alle piante organiche pubbliche. Non è solo questione della casta. A me sta cosa mi è venuta in uggia, a dire la verità, perché la casta individua ai vostri occhi responsabilità di molte migliaia, troppe migliaia di apici politici e amministrativi del settore pubblico italiano, a qualunque livello, dei troppi livelli di governance stratificati nel settore pubblico. Ma il problema qui non è mica la casta, sapete, il problema è che nei decenni, su questa superfetazione oncogena del settore pubblico italiano, e milioni di italiani si sono attrezzati per, come dire, visto che lo Stato ci insegna a essere improduttivi e inefficienti, noi ci attrezziamo per campare meglio così, e quindi ci sono milioni di dipendenti in imprese che campano avendo fatto un patto con il pubblico che intermedia fette crescenti del PIL con prezzi, tariffe amministrate, decise dal pubblico, con finte gare iperparcellizzate del territorio che spezzano ogni bacino di ottimalità economica, e che individuano magari i requisiti per le gare scelti con a seconda di chi li deve vincere. Pensate che io sono indagato per aver fatto la stessa cosa e mi scappa da ridere la sola idea che si possa pensare che io possa ragionare così. Sono indagato da anni e ho perso per strada le tracce del perché sono stato indagato, nel senso che naturalmente io non conosco ancora gli atti, ma questo è un altro paio di maniche. Ovviamente questo fa parte dell'efficienza del nostro paese, anzi dell'inefficienza, la cui sintesi è quella del ministro Patroni Griffi oggi sul Messaggero: giù le mani dal pubblico, il pubblico non si tocca, ci vuole ben altro. Ci vuole ben altro. Il problema è: vaglielo a raccontare ai lavoratori privati, vaglielo a raccontare a coloro che leggono in questi giorni le ipotesi di riforma dell'articolo 18. Ne abbiamo parlato ieri, vi abbiamo spiegato che con ogni probabilità nel disegno di legge andrà incontro a modifiche molto sostanziose, e tutti i giornali non a caso presentano oggi le dichiarazioni di Monti dall'Asia come dichiarazioni che per la prima volta fanno avvertire all'Europa intera che qualcosa si sta modificando in questo governo. Troppo presto si sta attenuando la sua carica riformatrice e il consenso che passò al 66% degli italiani al 44%, perché gli italiani di riforma dell'articolo 18 non ne vogliono sentir parlare, di licenziabilità, di flessibilità in uscita, hanno paura, pensano che sia un'arma tagliente, impropria nelle mani asimmetriche dell'impresa cattiva, e quindi non ne vogliono sentir parlare, e l'eccesso di energia con cui è apparso a tutti il desiderio del governo di intervenire sui licenziamenti economici, prevedendo che al giudice spetti solo non la reintegra in quel caso, ma un indennizzo, fa pensare agli italiani che sia un governo arrivato alla fine, perché è giusto che non passi questa linea. Allora, ma la sintesi, come vedete, su diversi argomenti, è sempre una: che in Italia il pubblico non si tocca, che in Italia il pubblico ha esigenze continue di alimentazione e di crescita aggiuntiva. Siamo veramente l'unico paese dell'Unione Europea che per rispettare i patti non mette mani mai a tagli veri. Sappiate che, ricordate che in tutto il dopoguerra italiano, gli anni nei quali, in termini reali, non nominali, quindi depurato dall'inflazione, in termini reali, la spesa pubblica italiana è andata all'indietro, cioè è diminuita, in tutto il secondo dopoguerra, dal 1946 a oggi, questa cosa è avvenuta in numero anni solamente 3. Un anno con il governo Ciampi e inizia negli ultimi 2 anni ad avvenire sotto il peso dello stop che è stato messo, visto che stiamo parlando del settore pubblico, grazie al blocco del turnover, in buona sostanza all'aumento esattamente della componente del totale della spesa del recinto delle pubbliche amministrazioni in massa salariale. Siamo intorno a 173-174 miliardi di euro l'anno sul totale di circa 800 miliardi di euro di spesa pubblica, compresi gli interessi, che tornano a salire ben oltre il 5% del PIL quest'anno. Quindi di spesa corrente vi dovreste fare il conto che sono più o meno 650-660 miliardi di euro. Ecco, su quell'ammontare il totale che va in massa salariale sono 140 e rotti miliardi. Devo dire che tra le grandi voci del bilancio pubblico è quello che siamo riusciti, di cui siamo riusciti a frenarne l'apprezzamento di più rispetto al fatto che in pensioni, che rischiavano di essere da 234 miliardi nel 2011, passare a 270 miliardi di sborso annuale in 5 anni. Abbiamo fatto per questo la riforma delle pensioni, che resta il fiore più alto all'occhiello di questo governo, ma questo per darvi il ritmo di quale sarebbe stato l'incremento della spesa annuale a fini di previdenza e assistenza, dei costi per forniture, beni e acquisti intermedi della pubblica amministrazione, in gergo tecnico, non si riesce a porre un argine, valgono da soli 150 miliardi, di cui un'ottantina di miliardi sono le forniture sanitarie, iperparcellizzate in aziende sanitarie, aziende ospedaliere, spezzettate, che respingono ogni logica di acquisti centralizzati in Consip, perché naturalmente solo ogni azienda ospedaliera, ogni azienda sanitaria sa quali sono i giusti requisiti di ciò che vuole e come si formano al meglio le curve di costo, cioè si sceglie fornitore, in parole povere. Ecco, queste sono le ragioni per le quali, come vedete, io non voglio sembrare puntare il dito pregiudizialmente contro il settore pubblico. Ammetto che con il blocco del turnover, cioè in parole povere, facendo ibernare in vecchiaia i dipendenti pubblici attuali, noi abbiamo messo un freno che è addirittura più efficace rispetto al resto delle voci della spesa pubblica. Detto questo, cosa diversa è ridurre il perimetro delle amministrazioni pubbliche. E la domanda a questo punto diventa: come mai in Gran Bretagna riescono a farlo per 730.000 dipendenti pubblici sotto il governo Cameron e noi no? Ecco, oggi ai nostri ospiti chiediamo queste due cose. La cosa fondamentale è tentare innanzitutto di spiegarvi, di farci spiegare, perché anch'io non lo so, quali sono le procedure con cui in Gran Bretagna si procede da questo punto di vista. Ecco quindi, perché abbiamo collegato con noi, di molto lo ringrazio di questo, il corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, che è Leonardo Maisano. Buongiorno e grazie a Leonardo. Buongiorno a voi. E Giovanni Faverin, che è il segretario nazionale della funzione pubblica della CISL, perché mi sembra giusto, il minimo è che diamo un contraltare e che quindi non abbiate l'impressione voi a casa di essere nelle mani di nemici del settore pubblico, dei lavoratori pubblici. Ripeto, io non lo sono affatto. Detto questo, Maisano, buongiorno e grazie a Faverin, non l'ho salutato. Buongiorno a tutti. Allora, Maisano, come funziona questa dannata macchina taglia dipendente pubblici in Gran Bretagna? La normativa per i dipendenti pubblici e privati è sostanzialmente analoga, cioè non ci sono differenze dal punto di vista della legislazione che tutelano i dipendenti pubblici più dei dipendenti privati, questo come dire, regola di base. Poi all'interno delle diverse strutture, ed è molto frastagliato, perché per esempio per i lavoratori del sistema sanitario, per i dipendenti degli enti locali, ci sono trattamenti su base di contratti di categoria specifici che possono dare diversi livelli di tutela. Ma la norma di base per un lavoratore privato o pubblico è molto semplice, cioè se l'azienda chiude, se ci sono ragioni economiche per cui il numero dei dipendenti deve essere ridotto, se il lavoro per il quale tu sei stato assunto non esiste più, o se ci sono sviluppi tecnologici per i quali tu non sei adatto, il tuo lavoro non è più necessario, puoi essere licenziato nel pubblico come nel privato. Ora, i numeri che hanno dato, in cui ci stanno dando in questi giorni, l'ufficio del budget responsibility, come dire, questa bella parola che il ministro, l'ufficio per la responsabilità di bilancio, questo ente creato dal governo Cameron, parla appunto di 730.000 posti di lavoro che dovranno essere eliminati nella pubblica amministrazione tra 2011 e 2017. A fronte di questi, e questa è la grande scommessa di Cameron, dovrebbero essere creati 1.700.000 posti di lavoro nel settore privato. Quindi l'idea è quella di un travaso delle attività dal pubblico al privato, come? Attraverso outsourcing, attraverso una serie di iniziative che però stentano a concretizzarsi, perché queste cifre sono il frutto in realtà di revisioni successive. Nel 2010, quando il governo entrò in carica, si parlò di 500.000 di posti di lavoro nel pubblico eliminati e di 1.000.000 di posti di lavoro nel settore privato da creare. In due anni le cifre sono cambiate, non solo il periodo si è spostato al 2017 rispetto al 2015, il saldo è addirittura aumentato a 1.000.000 rispetto a 500.000, il saldo positivo di nuovi posti rispetto al 500.000 iniziale, e si ipotizza la creazione di 1.700.000 posti di lavoro nel privato. Siamo nel mondo un po' delle previsioni estreme, perché è chiaro che tutto questo è legato poi alla capacità di crescita del paese. L'Inghilterra quest'anno chiuderà con uno 0,8 se le va bene nel 2012, e poi nel 2013 dovrebbe ritornare al 2%, e poi crescere successivamente. Quando viene attivata la procedura i cui numeri ci hai ricordato, che può dipendere da ragioni economiche, oltre che cioè, sì, sostanzialmente vengono soppresse funzioni, che cosa avviene al lavoratore pubblico, sia pure coperto da diversi contratti, da comparto a comparto, come ci hai ricordato? Cioè, l'indennità è quella uguale a quella del lavoratore privato britannico, oppure ci sono diversità? No, le indennità possono variare, questo è l'aspetto dei contratti poi di categoria che si vengono a, di categorie specifiche che si vengono a sommare a quelli, diciamo, di base. L'indennità di base è una settimana e mezzo per ogni anno di lavoro, per ogni anno di lavoro lavorato. In realtà si arriva a circa un mese di indennità per ogni anno. Se i licenziamenti riguardano gruppi di dipendenti inferiori ai 20, la trattativa è individuale, oltre i 20 scattano le procedure sindacali che durano normalmente 90 giorni, dopo 90 giorni il lavoratore è fuori. L'unica questione abbastanza importante è che la procedura è molto molto stringente, cioè ci deve essere uno step by step che se non è seguito nel modo più puntuale può consentire al lavoratore di opporsi al licenziamento, andare anche in giudizio a cercare il reintegro, ipotesi comunque molto molto rara. Col giudice il reintegro, anche lì? Sì, cioè nel caso non sia stata seguita la procedura che è prevista dalla legge o dagli accordi sindacali. C'è una procedura che prevede che il lavoratore sia consultato un certo numero di volte su base personale, che è tutta una procedura molto specifica che deve essere seguita in modo pedissequo dal datore di lavoro e naturalmente dalla controparte. Ora, chiediamo a Faverin, ripeto, al netto, e che sia chiaro, del fatto che nessuno, e non sicuramente il sottoscritto, intende aprire processi, colpevolizzare i dipendenti del pubblico impiego, non sono loro a decidere l'efficienza, gli effetti, le performance del settore pubblico italiano. Quelli sono i dirigenti amministrativi e chi ne porta la responsabilità politica. Detto questo, la questione è: in questi giorni monta una incomprensione, chiamiamola così, io chiamerei protesta vista la mail che ci arrivano, dei tanti lavoratori privati che ci dicono: ma perché il settore pubblico è diverso dal nostro? Ho provato a spiegare qual è la tesi illustrata dal ministro Patroni Griffi oggi, ma chiediamo a Faverin, dal suo e dal punto di vista della sua organizzazione, è giusto che resti tutto così com'è? Cioè, in altre parole, che le procedure di mobilità, che pure sono previste nell'attuale ordinamento per i dipendenti pubblici, praticamente non vengano mai o quasi a dite, se non per casi proprio di crisi di aziende pubbliche dell'ex recinto delle partecipazioni statali, ma quando si tratta invece di dipendenti pubblici delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, praticamente non, i casi di questo genere non si vedono. Questo, i dipendenti privati, siccome il posto lo perdono, non tutti sono coperti da le coperture che erano in vigore prima della loro estensione con la cassa in deroga, e di sicuro si trovano in difficoltà, si grattano la testa e non capiscono. Come rispondiamo a paesi che invece fanno come in Gran Bretagna, e ci ha appena spiegato Leonardo Maisano, anche con quali procedure e con quali garanzie, Faverin? Ma io credo che innanzitutto sia molto importante capire come mai c'è così tanta disinformazione, perché anch'io da lavoratore privato me la prenderei con quelli pubblici se, come un po' di stampa va dicendo e qualche volta anche sbandando, gli stessi ministri dicono che l'articolo 18 non è applicato nel pubblico, perché credo che i colleghi privati partano da questo presupposto, perché a noi sia, loro no. E allora bisogna dire che, come ha detto lei, l'articolo 18 nel pubblico è applicato allo stesso modo e anche sotto i 15 dipendenti negli enti con meno di 15 dipendenti come nel privato. Il punto in questione, giustamente messo in risalto da lei e dal corrispondente che ha parlato prima di me, riguarda la possibilità che è prevista nel nostro ordinamento, la 183, una manovra del 2011, dice proprio espressamente che dovrebbe essere fatta una ricognizione degli enti che hanno esuberi, e in questo modo, dove ci sono esuberi dichiarati, possa partire un procedimento di riorganizzazione e quindi la mobilità. Allora, alla prima domanda, si applica l'articolo 18 anche nel pubblico attualmente? Sì, addirittura voglio dire che il pezzo di riforma Brunetta della manovra di cui facevo riferimento prima dice espressamente che direttamente l'amministrazione comunica al sindacato, non c'è neanche una procedura di incontro, e dopo questa comunicazione si può procedere alla messa in mobilità, e se non c'è mobilità, accettata mobilità in altri posti della pubblica amministrazione, dopo 2 anni il licenziamento. Allora, questo è il primo punto, quindi esiste. Allora torniamo a quello che diceva lei, Giannino, cioè come mai nel confronto internazionale la nostra pubblica amministrazione trova raramente dirigenti laddove ci sono servizi che possono essere cambiati, riorganizzati e quindi il personale riqualificato, come mai questa azione è fatta solo da grandi riforme che poi raramente portano ad obiettivi? Perché il punto che mi pare giusto sottolineare, l'ha detto il collega prima di me, intanto questo cambiamento così spinto del governo del Regno Unito è dato proprio da un aumento considerevole, la media OCSE è 10,4, il paese che ha citato il collega 10,9, quindi c'è da parte del Regno Unito una rappresentazione di un aumento rispetto a tutti i paesi OCSE, di quel mix che è dato dai dipendenti della corona e dai dipendenti degli enti locali, che sono dipendenti pubblici in forme diverse, e quindi là si parte con un'idea che dice: spingiamo sulla sussidiarietà, c'è qualche servizio, qualche attività che può essere organizzato meglio, dalla sanità ad altri, e vediamo di riorganizzare in modo tale che ci possa essere un passaggio tra una parte di dipendenti pubblici che non vogliamo più assumere nel futuro e una parte di attività professionali che possono essere regolate nella comunità rispetto ai nuovi bisogni, utilizzando, da noi lo chiameremo il terzo settore, il no profit. Ma quello che va chiarito è che manca nel nostro paese un'idea di quali sono i servizi che restano necessari del livello centralizzato e del livello locale, ma io direi di più per affrontare questo argomento: come mai dopo 40 anni di regionalizzazione e della nascita di un sacco di enti strumentali di vario tipo, perché si potrebbe dire che anche nel nostro paese ci sono state negli ultimi 10-20 anni la nascita di strutture non pubbliche e quindi volute dal pubblico ma in forma mista, ma che hanno aumentato e proliferato il numero di persone impiegate in attività non sempre core. Allora la questione è: ma negli ultimi 20 anni, non diciamo 40, cos'è che ha funzionato e non ha funzionato a livello regionale e a livello comunale e dei centralizzati? Quante sono le attività che sono state riorganizzate, atteso che, lo diceva lei, 150.000 dipendenti in pubblici in Italia ci sono già per il blocco del turnover e 140.000 insegnanti di meno, ma operato con una manovra, con una riforma nazionale che dice: siccome taglio non puoi più assumere. Non come vorrebbero i dipendenti pubblici, per dire: la mia attività, la mia professione funziona. Com'è cambiato il bisogno di questa comunità e delle imprese? Perché il pubblico è un volano dalla conoscenza al servizio che dovrebbe servire a mettere in condizioni un paese così delicato di avere più velocemente, con più innovazione, tutti gli elementi di accompagnamento per consentire a un giovane o a una piccola impresa di intraprendere in maniera veloce, efficace e di avere dal pubblico l'assistenza e non il blocco. E allora come mai non esiste una rete unica informatica, un cloud che consenta a tutte le banche dati di comunicare? L'ha detto bene lei, Giannino, perché sono troppi centri di spesa e quindi ogni decisore vuole il suo appalto, non c'è un disegno che consenta né nel livello regionale, che non è una holding, né nel livello centrale, cambiano ministeri, raddoppiano, si sommano, di capire cosa ha bisogno il cittadino e l'impresa nella riorganizzazione importante che è già partita nel pubblico, ma che rischia di essere fatta non tagliando gli sprechi, ma eliminando una parte dei servizi, magari quelli più necessari, fuori da un disegno. Quindi mi terrei a precisare appunto che l'articolo 18 nel pubblico è applicato. Quello per ragioni economiche, quello che i colleghi del privato vedono giustamente come un problema e che la CIS vuole che sia chiarito fino in fondo nella formulazione parlamentare che ne uscirà per evitare un utilizzo improprio, è che il privato datore di lavoro ha un prodotto, ha un processo, ha un mercato, come spesso dice lei, e quindi si confronta, e se per effetti di questo prodotto o processo deve modificare qualcosa, mette in discussione. Nel pubblico chi è il sindaco, il dirigente? Ecco, allora su questo io la fermo, perché andiamo in pubblicità, perché poi riprendiamo con Maisano, a cui chiediamo di precisare meglio, appunto, cioè nel modello britannico, a decidere, a fare la spending review aggiornata, perché lei è una prassi che fa parte in maniera standard delle procedure contabili, ma è a decidere quindi che cosa non è più economico e che cosa cedere. Chi è? Lo si fa in maniera decentrata? C'è un disegno invece centralizzato con un input, c'è un livello di cooperazione però tra autonomie e centro, in cui il centro ha il più forte potere di impulso? Insomma, come funziona? Visto che nel nostro paese chiacchieriamo da molti anni di spending review, di fatto al Consiglio dei Ministri venerdì, per la prima volta, quando è esploso un dissenso anche nel governo Monti, è esploso su due cose: è esploso sull'articolo 18, quando la parte, diciamo, più socialdemocratica, come vogliamo dire in termini di SPD o di laburisti europei del governo, con Fabrizio Barca, Andrea Riccardi e altri, hanno detto al ministro Fornero: noi non siamo d'accordo sul tuo formulazione dell'articolo 18, quindi capiamo che in Parlamento lo si debba cambiare, come sostengono i partiti e i sindacati. E poi però sull'altro punto, esattamente quello di cui stiamo parlando, c'è stato un alternco abbastanza energico, a quanto pare, mentre il presidente Monti doveva partire per l'Asia ed era rimasto a presidere quindi come ministro anziano Piero Gnudi, tra Piero Giarda, titolare della Spending Review, e il vice ministro dell'economia Grilli. Piero Giarda ha detto a Grilli: ma dov'è la tua delega fiscale? Che fai? Ci tratti come Tremonti, che non ci fai sapere niente? E la risposta è stata: è perché la tua spending review dov'è? E l'indomani a Cernobbio Grilli ha detto: non mi aspetto molto dalla spending review di Piero Giarda. Come a dire che anche al governo dei tecnici, quando si tratta di incidere, di indicare con precisione e trasparenza al paese quali siano le parti del perimetro delle funzioni pubbliche da ridurre perché inefficienti, perché tali da segnalare al complesso dell'economia dei disincentivi complessivi invece che a produrre incentivi ed esternalità positive, e quando si tratta di fare questo, a chiacchiere di fatto non si ottiene mai niente, se non peanuts, se non pochette, proprio robette rispetto al totale della spesa pubblica. Chiederemo a Maisano dopo la pubblicità questo. L'unica precisazione: ci sono gli ascoltatori che contestano le cifre della fornitura della sanità, sono assolutamente quelle, mi dispiace, se volete in privato vi do tutti i dati, basta scrivermi alla mail. Eccoci tornati, e quindi ripartiamo con Leonardo Maisano, corrispondente del Sole da Londra, dalla domanda: lì come si decide? E fa parte di una procedura standard questa delle revisioni di efficienza e quindi delle allocazioni delle parti diverse del bilancio pubblico, in cui far rimanere la stessa spesa pubblica o magari concentrare di aggiuntiva laddove si identifichi che vi siano emergenze di rafforzamento di servizi da offrire anche con aumenti dei dipendenti, e altre che invece in maniera ordinaria si dice no, qui invece si leva, eccetera eccetera. Rispetto a noi, ripeto, noi abbiamo una contabilità inerziale, noi sul tavolo del ministro abbiamo a legislazione vigente di mese in mese arrivare l'aumento di spesa corrente che si genera automaticamente, non una fotografia zero budget base come si fa nelle imprese. Lì come funziona invece? No, il discorso innanzitutto è tutto estremamente centralizzato, cioè è il tesoro che detta le condizioni. La spending review è stata tutto sommato un esercizio complesso, nel senso che ovviamente ci sono consultazioni con tutti i ministeri e con gli enti locali coinvolti, è ovvio che c'è una consultazione ampia, però il risultato è stato che ci sono stati tagli ai bilanci assegnati ai ministeri in quote molto significative, e questi anche agli enti locali, per cui le autorità locali che sono andato per dire a incontrare nel nord dell'Inghilterra, dove un dipendente su due è un dipendente pubblico, perché questo era stato in un certo senso le conseguenze di una politica abbastanza lassista da questo punto di vista dei laburisti negli anni passati, che per cercare di prendere consenso al nord avevano agevolato assunzioni nel settore pubblico ampie, per cui ci sono appunto città come Middlesbrough, per fare un esempio, che hanno di fatto un dipendente pubblico su due, e si sono ritrovati a vivere un'impennata nella disoccupazione enorme. Questo per dire come avviene, cioè la decisione è centralizzata, il budget viene tagliato da Londra e poi tocca all'ente locale riorganizzare due attività, e quindi se ritiene che ci siano posti di lavoro che devono essere eliminati, li elimina e ristruttura i suoi servizi. Da noi, ricordo a tutti, in questi anni è stato messo mano con energia all'equilibrio, anche compartecipato da parte delle autonomie, al raggiungimento degli obiettivi di saldi pubblici e di risanamento dei saldi pubblici, è avvenuto con un patto di stabilità di cui abbiamo parlato tante volte, con gli effetti paradossali che chi è virtuoso e avanzi primari non ha potuto utilizzarli, anzi adesso la tesoreria è sparita perché se l'è presa lo Stato, ma i tagli ai trasferimenti che sono avvenuti prima dell'adempimento dell'orizzonte della maggiore autonomia impositiva locale, perché è al 2019 che dovevano scattare, ma scatteranno mai? A questo punto si è interrotto il processo, i decreti attuativi del federalismo fiscale, è avvenuto tagliando i trasferimenti subiti, poi dando adesso il via libera alle addizionali locali, effetto in busta paga questo mese, e con l'IMU di cui però lo Stato prenderà una molta maggior parte fetta di quanto si aspettasse, ma tutto questo avviene in permanenza delle piante organiche. Questo è l'ennesima conferma di quello di cui stiamo parlando. Io per esempio mi chiedo, nelle grandi, siccome noi viviamo in un ordinamento amministrativo che parte dal presupposto di chiedere le stesse funzioni, le stesse efficienza in paragone a comuni di 81 abitanti, è il numero minimo di abitanti di un comune italiano, fino alle metropoli di milioni, quando è ovvio che non ci può essere alcuno standard di tipo amministrativo di questo tipo, la mia idea per esempio è che circa la metà degli 88.000 comuni italiani dovrebbero accorparsi e sparire. Ricordo tutti che il duce Mussolini ne fece sparire 2200, che naturalmente la Repubblica reintrodusse, perché ovviamente era stata una cattiva cosa del fascismo. Detto tutto questo, noi ragioniamo con dipendenti dei comuni a centinaia in funzioni che secondo me andrebbero esternalizzate, perché restano funzioni pubbliche, certo che restano funzioni pubbliche, ma funzioni pubbliche possono essere quelle di cui, una volta stabiliti gli standard, affidati con gare a privati, invigilati da autorità indipendenti pubbliche, quindi restano pubblici a tutti gli effetti, non devono essere per questo gestiti a tutti i costi da dipendenti pubblici, ma possono essere organizzati in maniera molto più efficiente economicamente e a questo punto non più direttamente al collo del contribuente, da imprese private che restano in offerta di servizio pubblico, ma lo fanno in maniera economicamente tale da produrre utili per loro e senza che noi siamo gravati dalle piante organiche. Questa è anche una modalità attraverso la quale si possono cedere fette importanti di pubblico impiego al mercato, dove perdere cederli non significa affatto buttarli sul lastrico, perché questo è ciò che deve sparire dal nostro vocabolario. Chiunque come me propone una via di mercato più efficiente non vuole affatto buttare centinaia di migliaia di persone nella disperazione per strada. Si tratta di vedere nelle altre parti del mondo avanzato tanti esempi di procedure di cessione di attività da esternalizzare rispetto al perimetro pubblico, da affidare secondo standard pubblici a privati che lo gestiscono in termini di efficienza economica, dando dei vincoli di lock up di diversi anni al mantenimento di una percentuale molto elevata anche delle piante organiche. Si può fare, molti lo hanno fatto, è stata una delle modalità delle privatizzazioni in diversi paesi dell'est, in quelli i paesi più civili, voglio dire dell'est, quelli più vicini all'Europa. Perché non si possono studiare rapidamente fare queste cose? Perché devo leggere Patroni Griffi mi dice sempre che ci vuole ben altro, ma ha bisogno di un consigliere di Stato che mi dice che ci vuole ben altro, cioè il rappresentante, lo dico incazzandomi, non con Padrone Griffi, basta con sti consiglieri di Stato e consiglieri della Corte dei Conti che hanno in mano apicalmente tutti i capi di gabinetto dei ministri e dicono loro ai ministri cosa sì e cosa no, basta con questa roba, è l'esatta rappresentazione del settore pubblico che si è autoimpadronito dei propri controlli, altro che torni alla politica. Ho sempre visto negli ultimi 20 anni loro dire al politico di turno, che non sapeva quasi mai niente tranne le eccezioni, questo puoi farlo, questo non puoi farlo, questo sì, questo no. Ricordate le leggi di Niskanen quali sono? Quando un attore pubblico che si possa pensare weberianamente con l'articolo 97 della Costituzione, che basta dire che deve essere autonomo e indipendente. Certo che può essere autonomo e indipendente, ma può essere così autonomo e indipendente da essere autocentrato, perché lui è un monopolista senza concorrente. Un monopolista senza concorrente estrae il massimo il valore che può dalla propria funzione. Sto parlando di vertici apicali. Un vertice apicale amministra più potere, quanto più ampia è la fetta di risorse che lui intermedia, quanto più un parere la cui interpretazione lo vede come unico depositario, tanto più quel parere sarà il tipo di parere che produrrà per i tipi di processi e procedure a cui dirà sì nell'amministrazione pubblica. Questo è esattamente quello che è avvenuto nel nostro paese. Non pretendono tutti ovviamente di aderire alle tesi di Public Choice, Niskanen, James Buchanan, eccetera eccetera, però temo che l'Italia abbia molto bisogno di questo. Abbiamo in questo momento però bisogno che io smetta di chiacchierare, perché c'è bisogno del traffico. Allora, perché torniamo coi Doors? Perché poi io vorrei farvi capire, ma la stampa europea mi pare che non sia molto molto molto lontana dal riproporre toni del tipo the worst is to come, il peggio deve venire. Basta leggere oggi l'analisi di Stephen King, non quello della fantascienza ovviamente, Stephen King sul Financial Times, che compara la situazione spagnola a quella greca, e i termini per la Spagna di riuscire a passare dall'8,5%, che pare sia un 8,9% di deficit realizzato dal governo Zapatero, al 5,4% che deve fare quest'anno e poi al 4% l'anno prossimo, sono da considerare pressoché disperate, con la disoccupazione già al 23%. Intanto in Francia Le Monde ci informa che la disoccupazione è tornata a salire, e quindi è al 9,4%, è tornata a salire, e il picco da 10 mesi a questa parte. La cosa non fa bene per il sondaggio al ballottaggio al presidente Sarkozy. Al Paese, il Paese ha un'analisi dei merger bancari, del consolidamento bancario che è stato realizzato negli anni di governo Zapatero proprio per risanare la parte del sistema bancario spagnolo che era più marcia, quella delle casse di risparmio locale. Pensate che sono state fuse da 50, oltre 50 a 14, eppure il Paese scrive oggi, guardate che abbiamo creato però 14 mostri che non stanno per il solo fatto di essere fusi insieme con bad banks, cioè con gli asset senza prezzo fuori, non sono in condizione attualmente però di rappresentare una parte sana del sistema bancario, come non sbaglia, come servisse poi a una Spagna in quelle condizioni. Risparmio tutto il resto, per dirvi che continuano sempre a guardare i giornali europei come vero aggancio per capire quando cambiare la nostra musica. Sentiamo un po' di telefonate. Emanuele che chiama da Biella, prego Emanuele. Buongiorno dottor Giannino, grazie dello spazio. Solo un breve intervento. Si è parlato di Regno Unito. A me sembra che sia un esempio un po', come dire, preoccupante, perché sicuramente lei conosce la classifica dell'indice di sviluppo umano, e d'accordo, Cameron vuole tagliare questi dipendenti pubblici, però è una politica che negli anni è già stata fatta e ha fatto piombare il Regno Unito al 28esimo posto. Le dico soltanto che l'Italia è al 24esimo con tutte le sue magagne, e sono dati del 2011, e il Regno Unito è davanti al d'importo alla Grecia. So che sembra incredibile, però è così. Quindi io semplicemente faccio una riflessione: d'accordo mettere a posto i valori macroeconomici, però mi domando, queste persone che verranno tagliate cosa faranno? Cioè, io questo 1.700.000 per posti di lavoro in 5 anni, che insomma mi ricordano un certo signore non tanto alto che governava dalle nostre parti, non so come li creeranno, cioè, tutto qui. Emanuele, Emanuele, per carità, io rispetto tutti i punti di vista. Erano le stesse obiezioni che si facevano alla Thatcher tanti anni fa, che aveva ereditato un paese in ginocchio, a differenza di quello che ha ereditato Cameron, che è un paese che ha grandi problemi, ma per esplosione dell'asset bancario e dei prezzi immobiliari. Un paese in ginocchio, si diceva: ah, cosa vuoi fare? Vuoi dire no ai sindacati, alle storie pubbliche? La Thatcher l'ha rimesso in piedi, ha fatto un turnaround, ha chiuso molte aziende manifatturiere che non stavano sul mercato, ha chiuso attività che non stavano sul mercato, ha lanciato la Gran Bretagna dei servizi, ha rivoluzionato procedure, sistemi, esattamente accusa di voler depauperare il paese, di volerlo mettere in ginocchio, però l'ha rimesso in piedi. Mi rendo conto che questa risposta è esattamente ciò su cui siamo divisi, e non mi scandalizzo. Basta però che chi fa i turnaround di paesi o di aziende non sia indicato come il nemico del popolo, perché sono più nemici del popolo coloro che, per assecondarne tutti i bisogni primari, prendono per sé, come fa lo Stato. E questo che vi sfugge a molti di voi: per sé non per voi. E voi continuate a credere alle cose che vi dicono quando si tratta di dire diminuiamo il perimetro della spesa pubblica come se fosse tagliare i servizi. Noi diamo al welfare meno del poco più del 25% del PIL. La spesa pubblica è più del doppio. Poniamoci la questione del come e del perché. Cosa pensa Matteo dalla provincia di Bergamo? Sì, salve, grazie. Faccio davvero i complimenti per il tentativo di affrontare problemi reali. Io provo, c'è un'osservazione, se ho capito bene il dottor Giannino, c'è la sua idea che qui il problema è è quello del troppo Stato e quindi dobbiamo andare un po' anche, più privato. Non solo, anche perché poi c'è un problema di produttività del privato che lavora sul mercato domestico senza concorrenza, ma anche nell'ambito dei problemi c'è anche quello. Certo, ecco, io ho vissuto per diversi anni in Inghilterra e le posso assicurare che l'Inghilterra è decisamente da questa parte. Il governo di Blair in Italia sarebbe stato classificato come il top del neoliberismo a confronto, diciamo, delle politiche italiane. Però io mi permetto di fare un'osservazione: se si vuole davvero risolvere i problemi, stiamo attenti di centrare davvero qual è la conflittualità problematica attuale. Al momento presente non mi sembra che sia tanto tra quello tra Stato e privato, ma quello tra finanza e Stato. Verissimo, e finanza verissimo. E privati. Verissimo. No, perché no, verissimo. L'Inghilterra oggi è in ginocchio non per una problematica di conflittualità tra Stato e privato, ma perché esatto. Lo Stato si è indebitato per le banche. No, su questo l'abbiamo detto, Matteo. Francesco La Caserta, c'hai 5 secondi, ce la fai? Sì, pronto, buongiorno. No, volevo dire molto rapidamente che è una follia, per esempio, che la regione Campania ha 12.000 dipendenti mentre la regione Lombardia ne ha 4.000. E qui ti fermo perché, per così dire, 5 secondi sono terminati. Noi ci vediamo domani. Grazie a Leonardo Maisano, grazie a Giovanni Favarini, grazie a voi tutti.